questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati anche per questa settimana, per questo fine settimana a Radio Tube, il nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, il perdibile, l'estremamente perdibile della settimana tra televisione, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web. Nemmeno questa settimana lo chiameremo popolo della rete. Daniele. Assolutamente, a che numero di puntata siamo arrivati? Alla quinta. Addirittura. Non te lo saresti mai aspettato. Quasi un serial televisivo. Quasi, sì. Aiutateci a comporre questo serial televisivo scrivendoci anche a @MartaCagnola e @DiBellasio e soprattutto con l'hashtag, cancelletto fatto con le dita, Radio Tube. Parleremo molto di Marta Cagnola in questa puntata. Ma forse perché stiamo per parlare della più bella d'Italia? Ah, giusto, mi hai dato retta. Sarà andato malissimo, immagino. Miss Italia è stato un disastro. Ti dico solo che è nato subito l'hashtag Dismiss Italia. Poveri, però la coppia di presentatori mi fa così simpatia, quel baffetto. Simpatia, tenerezza e totale disarmo. Però è stato un disastro. Non ha funzionato granché per ascolti, ma non ha proprio funzionato. Insomma, ascoltiamo un brevissimo estratto, perché tu non l'hai ancora sentito, Daniele. Diciamo che è un audio che ci fa capire che cosa è successo. Vediamo le più belle. Vediamo Miss Italia. Eccoci tornati in onda. Sì, sì, così, tornati in onda. Sì. E a questo punto, per l'ultima volta, sentiremo una musichetta che ci è tanto cara. Via la musica! Con questa musica viene generalmente, abbiamo fatto la prova. Ah, era una prova, era una prova. Annunciato l'arrivo, sì, del notaio. Sì. Siccome si stanno facendo dei conteggi, cioè deve essere stato un problema, gli hanno dato l'abaco, come si chiama? L'abaco, sì. Il pallottoliere. Il pallottoliere. No, Massimo, il pallottoliere. Perché tu sei. Guarda un po'. Ecco che arriva. Oh, con una busta differente. Grazie. Ancora un applauso. Grazie, notaio. Tutta la sera ha fatto i conti. Insomma, sto notaio arriva, non arriva, la musichetta parte, non parte. È stata una tragedia. Che ritmo. È stato veramente brutto. Peraltro, poi cosa è successo? Che Salvo Sottile, conduttore di La 7, non si è tenuto e ha criticato via Twitter Miss Italia. È stata una non cosa. Si fa. Vabbè, non si fa. Insomma, se. Ecco, secondo te si fa o non si fa? Cioè, si può criticare un collega su Twitter? Cosa sai si può che fare? Sai che non lo so. Io sono sempre dell'idea che, vabbè, io dico sempre che dei morti e dei colleghi parlo sui social network solo se ne posso parlare bene. Questa è un po' la mia. Diplomatica. Ma no, Marta. Non è una questione di diplomazia. Marta perché sul YouTube magari, molto diplomatica. Magari ci sono delle antipatie personali. Certo è che, insomma, su Miss Italia. Ma puoi lui parlare male? Ti do il permesso. Ah, sì. Allora lo farò subito. No, sto scherzando. Su Miss Italia lui, insomma, si è scatenato. Era giudice a un certo punto. Era anche giudice. Sì, ha twittato una cosa del tipo. Ma finalmente è quasi finita. Sì. Cioè, era giudice e criticava la trasmissione dove era ospite. Guarda, non è stata tanto la settimana di Quindi Salvo dopo Sottile. Dopo noi facciamo neri la trasmissione di Salvo Sottile che abbiamo al telefono. No, non ce l'abbiamo ancora. Ma dovremo chiamarlo, anche perché Salvo Sottile è stato uno dei protagonisti della settimana, perché ne ha combinata un'altra. Io so che a te però in realtà piace, ti sta simpatico Salvo Sottile. Beh, sì, dillo. Sì, no, in fondo ha il fisico da conduttore, lo sguardo da attore e la voce da cantautore. Ma sentiamo cosa ha combinato Salvo Sottile con Linea Gialla. Anche qui qualche piccolo disastro. È una delle paure più grandi per un genitore, un incubo che potrebbe riguardare ognuno di noi. È quando un figlio sparisce o viene rapito per non tornare mai più. È quando vediamo immagini come queste, guardate. Uè, l'audiospia dello studio, alziamo? Beh, intanto già qua qualcosa non funziona tecnicamente. E non siamo stati noi, eh? A immagini come queste si è pensato quando è venuta fuori la storia di Maria. Chi è Maria Lucilla Masucci? E anche qui qualcosa non sta funzionando tanto. Peccato, perché è l'inviata più brava. È proprio brava. In Grecia. L'incubo questa volta aveva preso le sembianze di una leggenda che ogni tanto si fa strada nel nostro paese, la leggenda dello zingaro che rapisce i bambini. Invece no, era stata la madre di Maria a regalarla ai rom perché dice non poteva sfamarla. Ma è andata davvero così? Beh, Estrar, lui è una drammaturgia fatta uomo, ma è andata davvero così? Sì, e tra l'altro qui c'è tutta la polemica poi attorno, sì, no? Sì, allora cosa è successo? Che c'era questa sovrimpressione effettivamente che semplificava un po' la cosa. Era: gli zingari italiani rapiscono i bambini, punto di domanda. In realtà si spiegava che questa cosa non succede. Però, insomma, ecco, la sovrimpressione... diciamo che quando hai usato la parola semplificare sei stata gentile, era nei un confronti. Po'... Ecco, allora, cosa è successo? E su Twitter, che... no. Gad Lerner ha twittato: va bene tutto, ma il titolo di sovrimpressione "Gli zingari italiani rubano i bambini" non l'avevamo ancora visto su una TV italiana. Pua! E cosa ha twittato a sua volta Salvo Sottile? "Avevamo visto di peggio in TV quando da direttore del TG1 hai mandato in onda le immagini dei pedofili, ti sei dimesso, pua!" Quindi ah, tu... una roba proprio di inamicizia. Ma tutto ci siamo ciò tutti... è molto bello. Però poi sei... direttore Mentana ha un po'... cioè ha spiegato che ovviamente Salvo Sottile probabilmente non sapeva nulla di quel titolo. "Sono sicuro che Sottile non c'entri nulla. Chi l'ha tradito, suggerisco futuri quesiti. Gli albanesi rubano? Gli ebrei sono avari? Le donne sono tutte P, puntini puntini. I napoletani non si lavano." Insomma, alla fine, non su Twitter, non su Twitter, perché no, Mentana non è ancora, no. non è ancora tornato. Non è tornato, ma è su Facebook. Su Facebook c'è, però non io vorrei vero. Riproporre un vecchio ma One sempre verde. È un grandissimo momento. Quanto mi piace Rosario Fiorello. "Sono molto accigliato, parleremo sì. di un caso adesso. Ah. Impronta digitale, fiotti sì. di sangue, ah. eccoli. Sì. Attenzione, trocce ematica, irrissi Parma. Il maresciallo Garofalo, come si chiama? No, colonnello. Il colonnello Garofalo sì. scopre gli assassini prima che fanno l'omicidio. Ah, pensa, addirittura prima, sì. Addirittura. Sì. Pare siano state trovate tracce ematiche. Ah, ma certo. essendo a Cinecittà poteva essere anche sangue finto. Certo. O del normale ketchup. Ah. Ma alle 22:20 la bella notizia. Quale? Era sangue vero. Ah, che bella notizia. E questo era sì. il più grande spettacolo dopo il weekend, memorabile. Senti, ma tu che sei una scienziata dell'audience, come va Salvo Sottile? Allora, Salvo Sottile va bene, e tra l'altro Salvo Sottile si è preso la rivincita su Matrix, che è andata a Luca Telese. Qualcuno diceva che lui si fosse arrabbiato e fosse andato alla 7, perché sperava di vedere lui Matrix. Tra l'altro, insomma, il nostro straordinario Salvo Sottile in un certo senso è stato anche premiato da Aldo Grasso, che ha sottolineato il fatto che alla fine gli ascolti di Linea Gialla non sono affatto male se li paragoniamo a quelli di Matrix su Canale 5, che... e soprattutto della media della Nuova 7, no? Perché no, certo, perché la Nuova 7 aveva fatto tante scommesse, alla fine forse questa è quella che ha vinto. Se poi ha superato la prova Aldo Grasso, è definitivamente nell'empireo. Io sono sempre team Aldo, ma continuiamo a parlare di televisione tra poco. Abbiamo un altro tema molto molto caldo della settimana, tra qualche istante. Parrucchini. Radio Tube. Rieccoci insieme con questa puntata di Radio Tube. Abbiamo parlato dell'affair della settimana che ha riguardato un po' la 7, tra Miss Italia, Linea Gialla, insomma se le sono date di santa ragione non solo in televisione ma anche su Twitter, e noi siamo molto contenti quando scorre il sangue nei social network. Ma continuiamo ad andare avanti col nostro Radio Tube perché abbiamo un sacco di cose da raccontare di tutto quello che è andato. Andiamo sul Nazional Popolare. Andiamo sul Nazional Popolare perché noi ogni tanto parliamo di serie americane. Come ci piace questa cosa di riempirci la bocca con queste serie americane che... E adesso una serie anti-americana. Una fiscio, possiamo dire una fiscio di Rai 1, che ha appassionato gli utenti della rete, che si sono messi a twittare, a commentare sui social network per parlare di Adriano Olivetti. Io ascolterei un brevissimo estratto di del questa... parrucchino. Ne parliamo dopo del parrucchino in radio, non si vede, è come quello di Sandro Maier, non c'è niente da fare, non si vede il parrucchino in radio, ma si sente. Una svalutazione monetaria senza fine, Una crisi economica, politica, sociale, che coinvolge l'Italia intera. Io penso che bisogna lasciarsi condurre dai nostri valori spirituali. Io voglio per noi una fabbrica piena di luce e di bellezza. E voglio orari di lavoro corti, che le donne in maternità abbiano un anno intero di congedo. Felice mia. Ma senti come solenne la colonna sonora, il ticchettio della macchina da scrivere Adriano Olivetti trattino La forza di un sogno. Questa sì che è una fiction. Come siamo buoni su Rai 1 nelle fiction, con o senza parrucchino. Ma perché parliamo del parrucchino? Gli unici cattivi chi sono? Dunque parliamo del parrucchino perché intanto tutti stanno parlando di Ballando sotto le stelle. Beh, per un parrucchino come noi avevamo intuito fin da subito. Ballando con le stelle, ma tu continui a non guardarlo. Tu continui a non guardarlo. Non fai i compiti il sabato sera, non guardi la televisione. No, almeno il sabato sera. Ma almeno la fiction l'hai guardata, La forza di un sogno. Sì, sì, la prima puntata l'ho guardata, la seconda me la sono risparmiata, diciamo così. Ma cosa ti sei perso? Ma io vorrei chiamare in causa anche un ospite, con l'apostrofo tra un ospite, un critico televisivo o critica televisiva, Stefania Carini. Stefania, ciao! Ciao, ciao. Chiocciola Stefania Carini, così diamo anche l'account di Twitter per chi la non volesse. Non è come la Mancuso che non è ancora. No, la Mancuso che spia, ma che non riusciamo a convincerla, niente, non vuole scendere in campo. La Carini su Twitter è un fuoriclasse. Allora Stefania, intanto io vorrei porre la questione. Secondo me Luca Zingaretti in Adriano Olivetti non portava il parrucchino. Boom. Allora, secondo te quindi si è fatto ricrescere un po' di capelli? Perché sì, lui sì. Qualcosa c'ha ancora, perché in Tasca secondo me erano suoi un po' quei capelli, però sopra la nuca non possono essere suoi, non arriva fin là il mistero dei capelli, quello è un parrucchino. Ecco. E il problema del parrucchino è il problema della fiction italiana. Attenzione, il parrucchino e la fiction italiana, qui siamo nell'ambito delle teorie, perché Stefania Carini non è solo critico di Europa, Corriere.it, però Stefania Carini è anche un'accademica, quindi approfondiamo questo tema serissimo, parrucchino e allora, fiction italiana. Gli accademici o l'accademica in questione sostiene che la fiction italiana ha un problema semplice, che è quello appunto del parrucchino, ovvero l'idea è quella che basti un semplice parrucchino, un trucco e parrucco per riportare in vita un'epoca, un personaggio, invece non è così, perché per dare il senso di una vita straordinaria ci vuole la scrittura, non un parrucchino. Purtroppo quello che vediamo su Rai 1 è sempre la solita cosa, c'è un flashback, una lunga spiegazione, come abbiamo sentito, delle idee del nostro eroe, ma non c'è il fare, non c'è l'agire, non si capisce alla fine perché dovremo veramente ammirare questi grandi personaggi. E poi c'è sempre questo intrigo d'amore, qua c'è anche qualcosa, un po' di spy story, c'è Stefania Rocca che fa la spia americana, però allo stesso tempo ha la madre di Cuneo. Ma chi con non ha una madre di Cuneo? Io ho una madre di Cuneo. Vedi, Daniele Bellasio ha una madre. Perché no? Allora tutto torna. Tutto torna. A me però mi sono divertita a guardare. Sai che a me poi alla fine a me Zingaretti piace. Ma la vita è complessa, i racconti pure. Però Luca Zingaretti a torso nudo, dai, qualcosa di bello l'abbiamo allora visto. Continuiamo a guardare Montalbano, dove la complessità c'è anche nel fisico di Zingaretti, nella sua vita privata, nel fatto che i cattivi sono anche un po' buoni. Che i buoni sono anche un po' cattivi. Invece in questo sceneggiato offendono se lo chiami sceneggiato. Ma era quella cosa lì, Stefania. Allora sì, ha un aspetto molto molto antico, cioè i cattivi, che in questo caso erano la famiglia di Olivetti, insomma gli mancavano i baffoni degli anni 20 per farli vedere cattivi, quando entravano in scena c'era la musica cupa. Alla fine è davvero una contrapposizione che non spiega l'epoca, non spiega il personaggio e rimane alla fine una sorta di bigino. Va bene, la Rai deve proporre questo tipo di personaggi. Adriano Olivetti è stato un personaggio molto importante, Ma il problema è che rimane qualcosa di totalmente staccato, non ti emoziona, e noi invece abbiamo bisogno di emozionarci per magari decidere di tentare anche noi il nostro sogno. Allora, io mi sono emozionata, ma mi sono emozionata ancora di più per un'altra fiction, anzi un'altra fiction, anzi un altro sceneggiato. Ma voltiamo pagina? Non voltiamo tanto pagina, preparati alla vera grande emozione. Ho dovuto farlo, non c'erano altre scelte. È stata una cosa terribile, ma necessaria. Ho dovuto fingere di essere morto con tutti. Anche con te, Chiara. E posso solo immaginare il dolore che vi ho procurato, ma l'ho fatto perché eravamo in pericolo. Quando ho preso in mano l'azienda dopo la malattia di papà, le cose hanno iniziato ad andare male. Era una situazione difficilissima. I mercati sono andati giù di colpo e mi sono trovato scoperto. A quel punto avevo bisogno di soldi, sempre più soldi. Le banche non mi hanno fatto credito e rischiavamo di perdere tutto. La casa, l'azienda, tutto. E a questo punto ho fatto lo sbaglio più grosso. Ho chiesto aiuto alle persone sbagliate. E allora ho pensato che, e mentre tutti mi credevate morto, io avrei potuto reinvestire i soldi che mi rimanevano. Ed è quello che ho fatto in questi mesi. Vabbè, ma questo è il nuovo Ridge di Beautiful, di la verità. Ma no, allora, non confondiamo l'acqua con la Coca-Cola. Una grande famiglia 2, hashtag UGF2. Due, cattivissimo me due. Meglio cattivissimo me due. Poi ti racconterò di quando io e la Carini siamo andate a mangiare in un certo posto per avere il pupazzetto di cattivissimo me due. Vabbè, ma non importa. Questo era Ridge, era Beautiful. No, era Alessandro Gassman in Una grande famiglia 2, che è uno dei grandissimi guilty pleasure di tutti coloro che si danno alla social TV su Twitter. €2, guilty e pleasure. Stefania. Stefania, appoggiami il termine, l'espressione guilty pleasure. Dai, si dice così, allora, si fa così. Il piacere perverso di vedere cose molto brutte, ma così brutte. Aiutami a dire brutte. Aiutami a dire brutte. Allora, una grande famiglia è il gran sceneggiatone italiano, paradossalmente più moderno di Olivetti, in un certo senso è qualcosa di più in là nel racconto televisivo. Eppure, come avete ascoltato, io non ho capito niente di quello che diceva Gassman. Sì, c'era, devo dire che in radio ha un effetto ancora più comico per questa voce drammatica sul che spiega, teatro, cioè spiega perché lui si è finto morto per un sacco di puntate. Tra l'altro lui appare ormai adesso sempre vestito tutto di nero, un po' esistenzialista, perché insomma si è finto morto, e anche qua interpreta il grande cattivone forse di un tempo, che dà questa spiegazione alla sua grande famiglia del perché si è fatto credere morto. Insomma, alla fine rimani avvolto da queste spiegazioni, da questa recitazione che qualcuno definisce recitazione Bau. Altre grandi teorie, insomma, della fiction italiana. Perché su Twitter, lo spiego a Daniele, forse Daniele non segue questo pensavo fosse la risposta della Bignardi al professor Monti. Perché c'è un gruppo di giornaliste, Guia Soncini, Paola Jacobi, una lobby, dette le Erinni, che twittano sempre, a noi piace molto, con il sempre l'hashtag che ha qualcosa a che vedere con il Bau, con il cane, quindi Una grande famiglia è diventato un grande canile, eccetera, ma comunque non ci perdiamo una puntata. Ma parliamo dei contenuti, basta vittimismo, non è sempre colpa di qualcun altro, gli americani, le banche, alcuni grandi personaggi devono essere raccontati perché sono stati quello che sono stati, dei vincenti. Stefania, non trovi che queste fiction siano sempre troppo lo spirito dei tempi? Dobbiamo dire che le cose ci vanno male per colpa di qualcun altro. E questo è un grande problema della fiction italiana, ma forse in realtà dell'Italia, ovvero non saper raccontare un individuo per quello che fa e per quello che è, colpe o meriti. Basta, questo lascio il posto fare bene a Stefania gli americani, ma forse c'è anche un'altra filosofia dietro, un altro modo di intendere la vita, e quindi forse questo ci manca. Invece noi tendiamo sempre a dare la colpa a qualcun altro e a non saper riconoscere che la grandezza di una persona è in quello che fa, che produce. Per questo sono grandi persone, non per qualche amorazzo o per la vita sentimentale, che è un altro grande momento di queste biografie che deve sempre saltar fuori e offuscare il resto. Io aspetto solo a questo punto la grande fiction su Bilderberg, che faremo solo per Daniele Certo. Il grande assolutamente. La scriviamo su Twitter. Grazie a Stefania Carini, a Bau. Presto. Grazie a voi, ciao, ciao. Radio Tube. Rieccoci insieme con Radio Tube, con Daniele Bellasio, se volete contattarlo su Twitter @DiBellasio, con Marta Cagnola, se volete contattarmi su Twitter @MartaCagnola. Abbiamo anche lei un hashtag. Lei parla bene di tutti. Io parlo bene di tutti, soprattutto del personaggio del quale stiamo per parlare tra poco. Abbiamo anche un hashtag cancelletto, che io faccio sempre con le dita, anche se non si vede in radio, Radio Tube. Io l'ho detto, parliamo di un grande personaggio. Io non voglio assolutamente indugiare in doppi sensi. Io sto parlando della sua enorme personalità e della sua prossima grandissima avventura. Come può, io ti chiedo, da uomo a donna, come può un uomo parlare con una certa, come dire, dimestichezza dell'argomento di cui dobbiamo parlare oggi? Facciamo perché subito il nome. Facciamolo. Ci pensa Rocco, l'hashtag è hashtag ci pensa Rocco. Stiamo parlando ovviamente di Rocco Siffredi. Rocco Siffredi che si sta per imbarcare in una nuova avventura televisiva. Lui farà quello che sa fare, lo sta per fare in televisione. Non pensiate a cose strane, no, perché stiamo parlando di televisione generalista. Stiamo parlando su che televisione va? Cielo. Mio marito, no, solo Cielo. Questa è preparata, diciamo, questa ce la siamo preparata. Da martedì su Cielo io darei direttamente la parola a Rocco nel promo del canale televisivo. Ecco cosa combinerà Rocco Siffredi. A un certo punto della mia vita ho capito che avevo una missione. Dappertutto vedevo giovani coppie, mi imploravano di aiutarle. È stato allora che ho capito. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Scusi Siffredi, ma quest'ultima frase non è presa dall'uomo ragno? Decisi di incontrare i più grandi maestri di saggezza. Da che ero il suo maestro, sono diventato il suo umile discepolo. Lui aveva qualcosa di più grande degli altri. E un giorno ho visto la luce. Aiutare le coppie a ritrovare il proprio affiatamento, riaccendere la passione. Questo è diventato lo scopo della mia vita. A loro ci penso io. Ci pensa Rocco, da martedì 5 novembre alle 23 su Cielo. La felicità esiste solo se condivisa. Mi perdoni, questa è una frase rubata da Into the Wild. Ma allora lei cerca rogne. Beh, che cosa diciamo? Stupendo, perché l'ha messa subito sull'ironia, quindi sono salvo persino io. È straordinario. Però questo nome è bellissimo. Mica sì. Pizze fichi. Hashtag mica pizze fichi. Rocco è un nome bellissimo. È un bellissimo. Nome bellissimo, sì. Hai qualche Rocco in famiglia? Sì, ho un Rocco in famiglia. Infatti è difficilissimo per me parlare di questo argomento. Molto spesso ci sono argomenti difficili, no? Mio figlio si chiama Rocco, sono un uomo, parlare di Rocco Siffredi è molto difficile. Per allora, te è più facile? Perché per perché te l'ho è più incontrato. Facile? Allora, premessa, sono stata alla conferenza stampa questa settimana, un delirio assoluto, e io mi chiedevo se tutte le giornaliste impazzite fossero c'era anche qualche uomo? C'erano un po' più defilati, le giornaliste in delirio. Mi sono subito chiesta se era solo perché Rocco è un bell'uomo o perché conoscono la sua filmografia, perché il dubbio. E poi ovviamente tutti a twittare. Hai visto? Io sono una cinefil. No, io assolutamente. Neanche un film. Io sono una cinefil, quindi solo per curiosità cinematografica. Io controllo il montaggio, le angolature, solo quello. Obbligo professionale. Sì, la direzione della fotografia, queste cose. tutti a twittare come pazzi con l'hashtag Ci pensa Rocco. Senti qui l'amica Silvia Rossi, chiocciola Silvia Rossi TVN, ha scritto la mia collega che era alla conferenza, ha aperto un fan club. Ancora Giovanni Zebedeo, chiocciola Picenissimo, quello che vi pare, ma il promo di Ci pensa Rocco su Cielo è fantastico. Rocco è il grosso orgoglio della costa est. Grosso orgoglio, costa ma est. Non sì. so, non so cosa voglia dire. E poi ancora Giovanni Santaniello, dal servizio pubblico Rai al servizio privato Mediaset, ma ora il servizio intimo Cielo. Insomma, perché tutti no? impazziti per Rocco, che io ho avuto l'occasione di incontrare, e pensa incontrare. Che anche lui ha spiegato tutto in chiave ironica. Senti cosa mi ha raccontato, io lì ai suoi piedi, solo perché era altissimo, Rocco Siffredi. Ma il mio ruolo è, secondo me, poi durante dopo la prima puntata mi sono reso conto che dovevo prendere la mia strada, quindi la mia strada è quella di essere sempre ironico, non puoi essere pornostar e prenderti troppo sul serio per 30 anni, quindi l'ironia legata alla vera esperienza di vita, legata ai 30 anni di esperienza con tantissime donne, anche coppie, uomini, persone che hanno lavorato intorno a me, voglio dire attori, quindi reazioni, soprattutto il rapporto umano tra le persone che con il sesso, giustamente, perché voglio dire noi pornostar comunque sia facciamo sesso sempre, dalla mattina alla sera, qualcosa di diverso esce fuori a livello di esperienza, d'approccio, di capire come funziona la mente femminile. Umanamente cosa ti ha dato l'incontro con queste coppie? Ma mi ha fatto, credimi, mi ha dato tanto, perché mi sono reso conto che entrando a casa loro la prima volta ho detto sarà culo trovare una coppia che tutto un tratto si apre, la seconda uguale, la terza, la quarta, cioè chi un'ora, chi mezz'ora, chi subito appena mi vedeva erano come se mi conoscevano da sempre, come se Rocco, se non ci riesci tu, chi ci riesce? Ma realmente non è uno scherzo, è come se vai dal prete a confessarti, quindi mi faceva sentire un pelino come un pelino anche azzardatamente troppo importante per quello che poi realmente sono. Beh, senti, come... Brava la giornalista che faceva le domande. Ma la serietà, molto brava. Mi viene da ridere da sola la serietà della mia domanda. No, lui è straordinario, però, perché tutto può essere visto come un enorme doppio senso, ma anche niente. Comunque. Anche niente, l'ironia. Tutto niente. 30 anni di carriera festeggio. 30 anni di carriera, uomini, donne, persone, coppie, gente. Soprattutto persone. La psiche femminile, lui è un genio. Però allora io vorrei questi affrontare questi poveri ragazzi che si sono visti arrivare, cioè la loro ding moglie aprì la porta, indovina come c'era SOS Tata, SOS Rocco. È così che ti arriva la moglie e dice guarda tua moglie mi ha detto che ha dei problemi, li risolvo la prossima io. Volta dobbiamo accontentare l'altra metà del nostro pubblico, diciamo. Ah, ci penseremo, adesso è una sfida, Però voglio porre un altro problema molto serio. Scottante. È molto serio. No, in realtà è serio, certo. Davvero. Allora, lui ha fatto questa battuta sul prete, quindi siamo sul confine tra illecito e l'illecito, tra il blasfemo e quello che si può dire, quello che si può fare. Io sono molto sensibile a questo problema. Questa settimana, anzi, in realtà poi è passato già qualche giorno, perché era alla fine della settimana scorsa, è successo qualcosa di strano, di molto buffo. I soliti idioti, li conoscete tutti, sono due comici che io amo particolarmente, ma certo sono un po' estremi. Hanno fatto questa performance artistica straordinaria e io già sto tradendo il fatto che sono una loro fan, perché si sono presentati al posto di Maurizio Cattelan, che doveva ritirare un premio. Insomma, lui ha fatto questa scelta un po' estrema, ha chiamato i soliti idioti. Cosa hanno fatto i soliti idioti? Gli organizzatori l'hanno presa benissimo. Si sono presentati come alcuni vestiti dei loro personaggi, vestiti da prete. Diciamolo. E sentiamo un breve estratto di quello che hanno combinato presentandosi al posto di Maurizio Cattelan. Signori, signori, avvocati, venditori, artisti, giovani, tanti giovani, anche alcuni drogati, dopo si vede, guarda qui. L'arte, la faccia, qui deve essere. Certo, signori, ma si chiederanno, ma perché ci sono? Signori, perché? Perché? Perché due preti arrivare il premio al posto di Maurizio Gatte. Di dove? Don Maurizio, diciamo. Don Maurizio, noi lo chiamavamo Don Maurizio, ma perché? Perché Maurizio è un fanatico religioso, è un devoto, è uno dei nostri clienti più affezionati della nostra Santa Madre Chiesa. Veniva alla messa e già faceva delle performance, eh? Avete presente quei momenti durante la messa che c'è questo momento di raccoglimento, di silenzio, anche un po' palloso, e lui partiva con certi bestemmioni, nel silenzio più totale, anche certe bestemmie che proprio c'è anche fantasia. Ma che ridere! E inventò la corrente proprio del bestemmismo. Io non so che dire, a me purtroppo, non lo so, a me fanno ridere. Sono molto combattuto nei loro confronti, perché a volte sono strepitosi, a volte sono molto soliti, appunto. Però posso, qui hanno fatto veramente dice, clamore. Per rispondere alla sua domanda. Senti, io direi che della religione non si può ridere. Ci teniamo un cassetto di divieti per aumentare la creatività, perché qualche divieto ogni tanto, culturale ovviamente, però non è che faccia proprio sempre male. Diciamo che per me non si può scherzare e ridere sulle religioni. Se qualcuno ci riesce è particolarmente bravo, proprio perché quell'argomento fa parte dei divieti culturali che vorrei mantenere. Tu cosa ne pensi? Io sono cattolica, ma ho riso come una pazza, perché secondo me non ce hanno riso fatta, della religione loro, ma hanno riso con la religione. Sì, faglielo dire all'organizzatore. Cos'è che successo? Ha preso benissimo, perché insomma l'organizzatore del premio Francesca, ecco, l'organizzatore del premio Francesca Alinovi, insomma, 27esima edizione, premio diventato Alinovi da Olio, cosa è successo? Di tutto, perché il critico d'arte Renato Barilli, gruppo 63, insomma non è che stiamo parlando di poca cosa. No, assolutamente. Cosa ha detto? Non lo nominerò mai più. Insomma, alla fine si sono arrabbiati anche con Maurizio Cattelan. Ma se uno invita Maurizio Cattelan si deve aspettare una performance, diciamo, fuori dalla norma. E così è stata. Siete dei guitti pietosi, andatevene, basta, state offendendo la memoria di Roberto Daolio. È difficilissimo. Posso rincarare la dose? Posso ancora metterti passi più in crisi? Passi dalla parte dei divieti? Ti proporrò qualcosa che in realtà conoscono solo gli abitanti e i frequentatori, non dirò il popolo, della rete. La messa laida. La messa laida. Attenzione, me ne parli da tantissimo attenzione. Tempo. Allora, questo è un audio tratto da questa performance. Questa in particolare è stata fatta alla Blogfest di Rimini a settembre, è ancora in rete sul sito della Blogfest. Lui è Azael, personaggio molto noto in rete. Molto cliccato, ma abbiamo messo le virgolette, non l'abbiamo detto davvero cliccato. Cosa succede? Io ho cercato dei punti in cui 45 non ore, solo, non so, perché poi astraendo dal contesto alcune battute sembrano veramente gravemente offensive. Non lo so, anche qui pongo il problema, un pezzettino della messa laida di Azza, e le ho no, scelte io. Sentiamola. Vorrei andare in paradiso. Siria. Gli Stati Uniti studiano una soluzione militare che non pregiudichi i rapporti con Cina e Russia. I gavettoni. L'iPhone low cost costerà circa 600 euro. È la cosa low cost più cara che ho visto dopo il Salento. Se Berlusconi esce dalla politica... Se Berlusconi esce dalla politica, non solo sarà tre volte Natale, festa tutto il giorno, ogni Cristo scenderà dalla croce, ma tutto questo farà dimagrire. L'Italia non sarà buona a rilanciare l'economia, ma se dovessimo fare una gara di scienze della comunicazione conquisteremmo il mondo. Il PD vive nel delicato equilibrio ontologico che gli permette di esistere un po' più di Dio, ma molto meno di una panna cotta. Io comunque capivo sempre Buongiorno Italia, gli spaghetti al vento. Anche voi. Senza che fate i fighetti, civatiani. Per avere la piena cognizione di quanto cazzo siamo invecchiati, dobbiamo pensare che adesso saremmo arrivati a Fantastico 34. Allora, a me Azael piace molto, chiocciola Azael, il suo account di Twitter, per vedere tutta questa messa laida, cioè il canale... guardando mentre noi lo mandavamo alla radio, certo, come tutti noi. Certo, no, controllavo l'esattezza, come sai io gli account poi me li dimentico. Chiocciola Azael, il suo account, la messa laida la trovate sul canale Blogfest Live. Civati qui, lo trovate su Twitter, Civatiani. E tra poco parleremo di PD, eh. E anche qui, ragazzi, io vi lascio guardare, ascoltare, pensare, traetene le conseguenze. Cioè, far ridere per tanto tempo di fila è molto difficile, però non ha un... non lega le cose. Io ho preso dei pezzettini, perché altrimenti se astraiamo dal contesto sembra veramente... è dura, le famose dura, parole ragazzi, estrapolate dal contesto. Sì. Io lascio la libertà di coscienza, la libertà di voto. Del PD. La panna cotta del PD. Siamo pronti per parlare di PD? Lo facciamo tra poco? Oh, finalmente parliamo di politica. Sono due cose che piacciono molto a Daniele Bellasio, il PD e il Milan. No, sto scherzando, no, l'Inter. Ma come il Milan? No, questa volta parliamo solo di politica, lo facciamo tra poco. Rock del Milan, Non ci posso credere. Assolutamente, un dramma pazzesco in famiglia, però sempre meglio che Gobbo, mi dico. Che vabbè, poi vuol dire Juventus, spiego perché. Grazie Marta per lo spiegone. Marta Cagnola è della Roma e quindi non sa. Radio Tube. E siamo all'ultimo blocco del nostro Radio Tube di questo fine settimana. Come dico sempre, come vola il tempo quando come ci vola. Si vive, come vola. Adesso facciamo un focus sull'economia. Facciamo subito vedere alla radio un breve estratto dal programma preferito di Daniele Bellasio, che come sapete sanno, è la gabbia, quel cult che è la gabbia. Quell'associazione, una chicca oscura di economia. Io non l'ho ancora fatta sentire a Daniele, ci perché manca so... la belva, ma abbiamo la gabbia. Presento Paolo Barnard, un applauso. Allora, con Paolo settimana scorsa abbiamo scoperto un po' di più dei trattati che ci legano all'Europa, che ci blindano, che ci vincolano in maniera tremenda all'Europa. Oggi parliamo di tasse, Paolo, e le spieghiamo così. Sì, lo dico senza mezzi termini, le tasse che stanno distruggendo questo paese, l'economicidio dell'Italia, sono interamente dipendenti dall'esistenza dell'Eurozona. Adesso questa è la parte che spiegherò nel mio secondo intervento, ma lo devo dire proprio molto chiaramente. Oggi l'Eurozona sta costringendo milioni di italiani a un'evasione fiscale che è legittima difesa, e sono molto orgoglioso di poterlo dire davanti a un ampio pubblico. Siamo veramente alla legittima difesa. La legittima l'economicidio difesa. Le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti, l'economicidio. E anch'io quando vado la prima volta ospite alla gabbia faccio di questi paroloni così mi attrago. Ma la, di economia l'applauso. Si deve vivere, non si muore. Ma perché di economia non si può parlare in TV? Ormai non si può parlare di economia, si può solo urlare in TV? È possibile? Io lo chiediamo avrei... a qualcuno? Io avrei... Abbiamo un ospite al telefono, Marta? Io devo darti subito una grande delusione, perché io ti avevo promesso il vero grande io economista. Io pensavo a quello. Non l'ho trovato. Io ho cercato per giorni di contattare Amilcare Pastrugnani, il grande economista certo. del momento, chiocciola su Pastrugnani su Twitter. Non sono riuscita a trovarlo, però... Però ci sono andata vicino per tentativi e ho scoperto l'unica persona che è riuscita davvero a parlare con Amilcare Pastrugnani, e abbiamo in collegamento Riccardo Puglisi, chiocciola Ric Puglisi. Buonasera Riccardo. Buonasera a voi, come state? Noi bene, ma guarda, io economista un po' affaticato. Economista vero, io posso leggere la sua bio di Twitter. L'inchiesta, economia, politica e media. Sito. Nuovo sito, economia, politica e media, ricercatore a Pavia, redattore de chiocciola la voce info, a volte sono anche meno noioso, dice, e poi il suo blog su l'inchiesta con la K.it. E soprattutto. E scrive anche per il Corriere della Sera. Sì, un giornaletto così di tanto in economia. Corriere della Sera, due cosine così, ma. Va bene. Riccardo. Dici chi è Amilcare Pastrugnani, come hai fatto, chi è? È stato un po' difficile perché la persona sfugge, un po' come quel matematico famoso Ramanujan, quel matematico indiano famoso che non era lì lontano, nessuno riusciva a trovarlo, mandava articoli a riviste con dei numeri incomprensibili, poi alla fine è stato trovato. Effettivamente è una persona timida, è una persona ritrosa, anche forse per le sue teorie forti, quindi non ha il coraggio di parlare, è un po' ritroso, ma alla fine siamo riusciti a rintracciarlo, sono riuscito a convincerlo, il nostro Pastrugnani, a mettersi su Twitter e cominciare a dire la sua, perché il suo potenziale deve venire fuori, deve venire fuori questa cosa, e deve soprattutto farsi invitare nelle trasmissioni che contano, nelle trasmissioni dove si espongono in maniera seria delle serie teorie su cosa spiega tutto. Ci ha risposto via Twitter e ci ha chiesto: ma il vostro studio è protetto dalle scie chimiche? quanti rettiliani vi sono tra di voi? Io non sapevo cosa rispondergli, quindi Amilcare per ora non vuole... Uno, è un po' questi aspetti così, è un po' preoccupato, chiaramente pensa che vi sia un nuovo ordine mondiale che è pieno di meccanismi che ci controllano e quindi si preoccupa di questa influenza, di queste scie chimiche che vediamo tutti i giorni in cielo. Lui ha una teoria secondo cui queste scie chimiche sono collegate a gruppi di potere che controllano il mondo, come per esempio il Bilderberg. Ecco, voi vi siete conosciuti lì, no? Immagino. Ogni tanto io l'ho chiamata la trilatera della moda, ma in realtà la definizione di Pastrugnani che la chiama la trilatera della moda, quindi cerca di fare dell'umorismo, ma perché capisce la forza di questi gruppi e teme che tra di voi ci sia qualcosa, ecco, teme le scie chimiche e soprattutto temi rettiliani, ecco, sottolineerei l'aspetto dei rettiliani. Non so se gli ascoltatori riconoscono la teoria dei rettiliani, di cui Pastrugnani si è occupato in una serie lunga di paper. La questione è che pare che vi siano una parte degli esseri umani, in particolare una parte della casta dei potenti, sia fatta da eredi di una dinastia di sostanzialmente rettili. Ecco, allora no, io vorrei anche citare qualche tweet, perché Luciano Capone, chiocciola Luciano Cap 1, invitano solo professoroni mainstream come Barnard, appunto, non hanno il coraggio di chiamare di chi dice la verità come Pastrugnani. Pastrugnani, il quale Amilcare twitta: altro che lira, ogni città, ogni condominio deve avere la sua valuta, zecche di condominio per tutti. Zecche di condominio, è un concetto importante nel pensiero del Pastrugnani. L'idea è che Pastrugnani, diciamo, oscilla un po' come un pendolo tra la denuncia del gomblotto con la G di vario tipo, quindi rettiliani, quelli che teme che siano dalle vostre parti, le scie chimiche eccetera eccetera, dall'altra parte ogni tanto ha dei gesti, dei movimenti liberistici, e quindi sostiene sostanzialmente che dobbiamo liberarci da questa grande cappa della moneta unica, dell'euro, che è un suo grande nemico, e dobbiamo andare neanche alla lira, bisognerebbe andare alla moneta del singolo stato, ma anzi il singolo quartiere, la singola circoscrizione, anzi il pensiero estremistico, ecco perché Barnard è un moderato, come Pastrugnani dichiarò in uno dei suoi primi tweet. In realtà non bisogna andare alla lira, bisogna andare alla moneta di condominio. Ecco, ma perché amiamo odiare l'economia e non riusciamo a parlarne, ma dobbiamo solo urlarne in TV? Questa è una domanda difficile, qua non so cosa direbbe Pastrugnani. Quello che direi io è che ci coinvolge talmente tanto, per cui è tutto lo stimolo è quello a essere radicali, a essere estremisti, a essere a dire la propria, e senza in realtà, adesso un po' più seriamente, una tesi forte ci fa dire che abbiamo la risposta, la soluzione, la chiave di lettura di tutto. E anche se invece la ricerca economica è molto meno chiara, basata sui dati, ci si sporca le mani sui dati, non è che dà sempre risposte così precise, mentre invece però uno urlato funziona, boh, funziona, vediamo, in realtà forse è troppo urlato, un po' la gente si stufa, anche la gente con 2G. Io prima di salutare Riccardo Puglisi, perché siamo quasi alla fine del nostro RadioTube, vorrei ascoltare insieme a voi un piccolo estratto da un'altra cosa molto importante che è successa nei giorni scorsi, la Leopolda. Insomma, il PD si è un po' trovato a confrontarsi con quello che potrebbe essere il futuro leader, chi lo sa. Matteo Renzi, vero, finto, due Matteo Renzi, uno. Ascoltiamo quest'audio insieme. Oggi la discussione è: ma perché non ci sono le bandiere del PD sul palco? Il problema è che non ci sono le croci sulla scheda quando c'è il PD. Allora noi vogliamo aprire e allargare la Leopolda per portare a votare il PD persone che non lo voterebbero, che non l'hanno votato, che non lo vogliono rivotare. Come si fa a non capire che l'obiettivo non è mettere una bandierina ma cambiare un paese? Ma come si fa a non capirlo? La TAV è importante, certo, è una cosa seria. Diciamocelo, non è un po' come stare a discutere se è meglio il cane o il gatto? Ma no. Sono questioncine, di gusti. È un tema, è un'opera importante. Faccio il buco, stiamo in un salotto, l'ombrellone, e dico va bene, ma parliamone. No. Ma guarda... Perché qui, signori miei, sì? Possiamo ancora perdere tempo a parlare di robe vecchie come obliterare il biglietto o bucare una montagna. Ma sono due cose diverse. Bucare la montagna, sono due cose diverse. I Renzini. Ma era Crozza, era Renzi, era Crozza. Chissà. Mistero. Cosa dice Rick Puglisi? Cosa direbbe Amilcare Pastrugnani, il misterioso Amilcare Pastrugnani? O Cuperliano? Forse potrebbe essere renziano, devo dire. Potrebbe essere una sua svolta interessante. Vabbè, noi continuiamo ad andare alla caccia di Amilcare Pastrugnani. Forse un giorno lo troveremo. L'ospite ideale di tutte le trasmissioni economiche. E Marta Cagnola farà un'intervista come quella a Rocco Siffredi. Anche meglio. E abbiamo finito il nostro tempo. Come va in fretta quando ci si diverte. Anche per questo fine settimana si conclude qui il nostro RadioTube. Ringrazio Riccardo Puglisi per essere stato con noi. Grazie Riccardo, buona saluti serata. Saluti ad Amilcare. Assolutamente, li porgerò. Ringrazio anche Pietro Lacorte che è stato con noi in regia per questo RadioTube. Noi vi diamo appuntamento intanto su Twitter, cancelletto RadioTube, @ di Bellasio, @ Marta Cagnola, ci trovate quando volete. Due saluti. Uno. Sandro Maier. Sempre. Ciao Sandro. E poi ciao Rocco. Ciao Rocco. Beh, quale Rocco? Il mio. Ah sì, il bimbo. Dai, allora, ciao Rocco quello vero, cioè il bimbo. Noi ci troviamo il prossimo fine settimana con un altro appuntamento con RadioTube.